Tuo Parenzo, sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Breaking news. Ora ufficiale, il lander Schiaparelli è atterrato su Marte. Dopo 7 mesi di viaggio spaziale interplanetario e 6 minuti di discesa, il modulo della missione ExoMars, organizzata dalle agenzie spaziali di Europa e Russia, con il fondamentale contributo dell'Italia, ha toccato il suolo di Marte alle 16.48, come da programma, ma i segnali che lo confermano sono arrivati dalla sonda dell'ESA Mars Express solo in questi minuti. Ulteriori approfondimenti nei prossimi giornali radio. Cruciani, noi autisti saralisti della GTT disobbediamo gli ordini tutte le sere, mettiamo l'auricolare e ascoltiamo la zanzara. Grande! Voi sapete cosa mi sto tenendo dentro, no Parenzo? Cosa mi sto tenendo dentro? Io farei un approfondimento su questa cosa. È una notizia epocale questa che è andata. Tu capisci cosa mi sto tenendo dentro? No, ma ha fatto benissimo, perché è una notizia epocale. Anzi, è una notizia che può cambiare le sorti dell'umanità. Tu capisci cosa mi sto tenendo dentro io? No, cosa ma fai male, perché invece è una notizia importantissima. Mi interessa. Torniamo non su Marte. Torniamo con i piedi. Ma perché è una notizia importante? Ma che cazzo me ne frega a me? Adesso parliamo di cose nostre, dai. È una cosa fondamentale. Ma chi per se ne frega, l'umanità. Se ne occuperanno gli scienziati. Perché però da un punto di vista così ha un impatto mediatico così forte questa roba? Allora ti faccio sentire una cosa che ti piacerà. La Boschi che dice che tra i promotori del no al referendum non c'è neanche una donna, e dunque la cosa secondo lei è elemento di riflessione, elemento importante. Cioè io penso che tra le cazzate dette tra quelli del ma non lo so, ma non mi interessa se c'è. Ma Carlassare, certo, tra i promotori, non so se sia tra i promotori, ma non mi interessa, non è importante questo qua. Cioè è oltre a essere una cazzata cioè nel senso magari anche una cosa vera, che tra i promotori, non so cosa significa i promotori, ma non significa nulla, niente. Cosa significa la Boschi? Perché devo sentire questa cosa? Una delle più grandi cazzo. Perché non stanno zitti alcune volte? Perché? E onestamente il quadro, anche la fotografia di chi si sta spendendo per i comitati del noi, lo abbiamo visto proprio qui a Roma qualche giorno fa. Se ci pensate bene, non c'era una donna nella fotografia. Ed è una cosa sinceramente che deve far riflettere. No, non deve far riflettere, non c'entra nulla, non c'entra niente che non ci sia una donna in quella fotografia che cita la Boschi del comitato promotore del no. Non c'entra una beata mazza, lo vogliamo dire o no, Parenzo? Cioè, perché sennò altrimenti non c'entra nulla, dai. Sì, questo non... Non c'entra, è un argomento ridicolo, dai. Con pacatezza è un argomento... Ridicolo. Un argomento un po' sciocco, un po' strano. Come peraltro Berlusconi, passiamo dall'altra parte, Berlusconi. Che dice Berlusconi poi, Berlusconi. Finito a processo, peraltro. No, anzi no, il processo a Berlusconi è stato stralciato, per altri no, la roba di Rubiter là per falsa testimonianza. Che votare no potrebbe alimentare una deriva autoritaria. Cioè Berlusconi, che quando era al potere avrebbe voluto, che ne so, lo scettro del re sole, perché secondo lui c'era una sola persona che doveva comandare, cioè, per votare chiarezza. Sì, semmai. No, votare no, altrimenti deriva autoritaria, dice Berlusconi. Bisogna votare no, altrimenti ci sarà una deriva autoritaria. Sì, se vince il sì, naturalmente. Ah, ecco. No, per dire, Berlusconi, quando era in charge, no, te lo ricordi, no? semplificazione. Come no? Votate. Non posso governare perché non ho gli strumenti. Soprattutto diceva purtroppo non ho, l'Italia non mi ha mai dato la maggioranza, sì, sì, non mi ha mai dato il 51%. Avrebbe voluto il 51%, 52% per Forza Italia. Cioè voleva l'uomo solo al comando, Berlusconi. Sì, a mio parere anche giustamente. Tutti i leader vogliono l'uomo solo al comando. No, ma adesso il fatto che dice che ci può essere una deriva autoritaria appartiene al mondo della... Cioè, certa gente non ha proprio rispetto per quello che è stata. Cioè, è tutta una questione solamente in questo momento elettorale. Cioè, perché abbattere Renzi per Berlusconi significa magari, secondo lui, magari ottenere qualche chance. Non lo so, ma è una contraddizione continua. Dobbiamo rispondere con un forte, deciso, responsabile no a questa riforma che favorirebbe una deriva autoritaria veramente con il rischio di un uomo solo al comando. Ma tu lo volevi un uomo solo al comando? Era la cosa che volevi quando eri presidente del Consiglio non più tardi di 5 anni fa, novembre 2011, ragazzi. Noi siamo qui, questa trasmissione esiste perché? Per un motivo molto semplice, caro Parenzo, lo sai bene, meglio di me. No, cioè, esiste so, perché certo, quando ma si tirano... Ma cosa serve a trasmissione, no, effettivamente? È vero. Non c'è niente che... È uno show radiofonico, però spesso serve perché le persone devono essere messe di fronte alle loro contraddizioni. Quando tu dicevi il grande archivio della Zanzara, le cose, eccetera, eccetera. Sì, sì. È sì, questa, sì, le persone, dossier, le persone che parlano devono essere messe di fronte alle loro contraddizioni. Berlusconi voleva l'uomo solo al comando e adesso ci rompe i coglioni, fa la propaganda dicendo che c'è il rischio di deriva autoritaria. Tutta questa roba qua per noi è uno schifo, chiaro o no? Sì, sì. Dai, su, è detto propaganda. In modo rude, è propaganda, ma è così. È pura propaganda, basta. Ma perché... ci sta, e figurati. Vabbè, che durante la Brexit. Ma che me ne frega, tutto, mica faccio tutto il politico io. Durante ma la non faccio no, il politico. Gli analisti politici. No, noi, non quindi, faccio nessun analista. Dico... Facciamo le analisi, le osservazioni, computiamo mica, i dati. Mica mi devo mettere per forza nelle panni di uno di loro. Io no, ti sto appunto, dicendo semplicemente. Fanno che propaganda, che come è normale che succeda. Fino a 4-5 anni fa, Berlusconi, e non solo fino a 4-5 anni fa, voleva l'uomo solo al comando, il re sole, avrebbe voluto tutti i poteri. Adesso ci rompe i cabasisi, come si direbbe in siciliano, forse anche più elegante. Forse in sardo anche però. No, i cabasisi in siciliano, ci rompe i cabasisi, cioè i coglioni, con questa storia della deriva autoritaria. Vabbè, va tanto Berlusconi, ormai. Allora, la Brambilla ha portato un cane in Parlamento, signor Sogno, che non è l'ex... Edgardo Sogno, quello della, no, quello di destra, eccetera. Che è morto, poveretto. Che beh, tanti anni fa è morto. Non lo conosce nessuno. Cioè, tu adesso dice Edgardo Sogno, la gente beh, non lo conosce. Vedrai che questi quattro. No, quelli che ascoltano lo sanno. Non lo vedrai sanno, che quei quattro imbecilli per di giorno che telefonano. No. Ho detto quel Parenzo, ho detto Edgardo Sogno. E vedrai che scimmiottando riusciranno a gli verrà la curiosità forse di scrivere su Google Edgardo Sogno. Vabbè, scriveranno ma male frega, Edgardo dai. Google dirà adesso, forse non c'entra cercavi niente. Sogno è semplicemente il cane della Brambilla, il quale è stato portato in... una cosa in più, questi imbecilli. È stato portato in Parlamento come primo cane, a parte che non è vero che credo che ci sia stato il cane là, come si chiama, dell'altra, della Biancofiore. È pieno di primo cani in Parlamento, quindi non è il primo cane. È una cazzata, pieno di cani. Prima minchiata della Brambilla. Prima minchiata. Ah, tu dici quello. No, caso. Dico pieno di cani. No, dillo che lì. Bello, finalmente ti lascio andare un po'. Pieno di cani eletti. Ci pare evidente, pieno di cani eletti. Quando c'è cani un intellettuali, cane. Dici tu, no? Pieno di cani. Mentalmente dei cani. Ma non voglio offendere i cani, anzi, no, ma secondo me i cani sono intelligenti. Perché secondo me, invece, secondo me sono entrati proprio anche dei cani. I cani sono fedeli a differenza di quelli di alcuni dei partiti, alcuni parlamentari. Brambilla. Sogno oggi è il primo cane che entra in Parlamento. È in missione perché? Perché vuole dire a tutti che la vera riforma è quella che prevede in Costituzione l'inserimento della tutela dell'ambiente, della difesa degli animali e del rispetto dei loro diritti. Allora, cara Brambilla, abbiamo già tanti problemi noi. Riformare la Costituzione è una cosa complessa, complicata. Mettere dentro la Costituzione, creare un dibattito in Parlamento, nel Parlamento italico, sulla esistenza dei cani, gli esseri senzienti, cosa proteggiamo, cosa non proteggiamo, questo grazie no. Ci riderebbero dietro fino alla Papuasia, più di quanto già non ci ridano dietro ogni giorno per le minchiate che succedono in Italia, una delle quali ve la facciamo subito sentire e viene, come al solito, da Napoli, caro Parenzo, da Napoli. Dove il capo dei vigili urbani, se non sbaglio, dichiara in maniera molto chiara, molto semplice, che a Napoli circolano per strada circa 7.000 auto senza assicurazione. Al 2015 e primo semestre 2016 nei controlli fatti sono circa 7.000 i veicoli che sono stati verbalizzati per mancanza di assicurazione. A queste poi c'è una piccola quota parte che circolano con assicurazioni false. Una piccola quota parte con assicurazioni false. Beh, il tagliando devo dire che è eccezionale. La falsificazione del tagliando è meraviglioso. Perché non deve essere nemmeno troppo complicato, no? Falsificare un tagliando, che ci vuole? Fai una finta polizza, cioè quelli fanno qualsiasi cosa, dai. Beh, quelli dappertutto fanno qualunque cosa, documenti. Diciamo che sono, lì sono abbastanza specializzati, diciamo la verità, eh. Io non ce alimenterei. Non ce la possiamo nascondere questa cosa. Razzismo geografico nei confronti degli amici di Napoli. Erano uscite delle notizie tempo fa sulla falsificazione del denaro. Dov'era la grande centrale di falsificazione del denaro? Dov'era secondo te? A Napoli, ma per carità, ci sono anche sì, i film. Non era a c'è Trento. C'è una vasta letteratura da questo punto di vista. C'è Totò, c'è qualsiasi cosa. C'è grande centrale della falsificazione, non solo del denaro, è Napoli e la Campania. Ragazzi, c'è poco da fare, così. Ma mi importa una sega a me di traffico, sono di bosca a cerca funghi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Allora, io sono molto amico, posso anche dire che è uno dei miei migliori amici, il signor Guido Bagatta, no, caro Parenzo? Persona simpatica e per bene, strano che sia un tuo amico, ma persona molto per bene, educata. La maggior parte dei miei amici, anzi il 99%, sono persone non per bene, forse addirittura molto più aperte di te. Molto più aperte di te, che fai parte di questa cerchia, che peraltro fai parte di questa cerchia. Però persone anche eleganti che non farebbero mai la cacca nel lavandino, ad esempio. No, spesso più eleganti di me. Io non ce lo vedo il compagno, io non ce lo vedo Bagatta con la adorabile fidanzata, molto bella peraltro, con cui si è messo, adesso non so se possiamo rivelarlo, forse si sposerà anche, quindi tantissimi auguri. Ma non mi sembra Bagatta uno che faccia la pipì nel lavandino. Ma magari l'ha anche fatta, che ne sappiamo. Io non mi sembra Bagatta. Ma comunque lascia perdere, adesso perché devi metterti a discutere di Bagatta quando io l'ho semplicemente evocato. Bagatta non mi sembra uno che fa la pipì nella attenzione, uno così intelligente, acuto, uno che sa tutto, una persona molto colta, che dice, che scrive la brambilla una di noi. Adesso, uno che dice così, caro Guido, non puoi dire una cosa del genere, la brambilla una di noi, non lo puoi dire, perché se ti faccio ascoltare qualche cosa rabbrividisci, non è possibile che la riforma della Costituzione non comprenda gli animali se non come oggetti, dai, su! E non è accettabile che ancora oggi questa riforma della Costituzione invece consideri i nostri amici cose, oggetti e non esseri senzienti. Uno può amare gli animali senza per forza che questi qua, senza fissarsi sul fatto che questi debbano entrare nella Costituzione, dai, su! Caprarica, bisogna, te lo ricordi Caprarica? Come? Sì, Antonio Caprarica, grande corrispondente della Rai da Londra, ma certo, ma scherzi. Però Caprarica, bisogna sterminare i piccioni, questo mi piace, questo è uno che mi piace. Questo non è male. Vorrei bandire una crociata mondiale antipiccione. Non ho mai capito come questo terribile uccello sia diventato un simbolo di romanticismo. Perché bisognerebbe sterminarli. Li ho visti dappertutto, a Piccadilly, sulla Place de l'Étoile a Parigi. L'unico posto in cui non li ho visti è Mosca. Si vede che perfino i piccioni hanno paura di Putin. Diciamo che secondo me Putin ha metodi un po' più spicci, diciamo, no? Sì. Un po' più spicci, secondo me, più spicci. Un altro capitolo va aperto su Corona, caro Parenzo, su Corona, perché ho sentito delle cose incredibili. Le Iene hanno cominciato a intervistare persone che sono state truffate, persone che chiedono soldi a Corona perché Corona aveva promesso questo, aveva promesso quest'altro. gente che Corona non ha mai pagato, e si va dai clienti, si va dai collaboratori, si va dagli autisti, si passa per autisti, cosa vuol dire? Aveva autisti? Beh, certo che Corona aveva un autista, uno non ha la patente come te, non è... No, io ce l'ho, tu la patente. Ce l'hai adesso, ma per... Ah, lui non ha ancora la patente? No, no, ma ancora, adesso non gli serve che sta in galera. Non ha mai avuto la patente. Da là non si muove, sì, no, no, non ha mai avuto la patente Corona, cioè... Cosa non sapevo, me lo rende simpatico questo però. Te lo renderà simpatico, ma è così, non ha mai, no, avuto, ecco, la patente. Hai detto una cosa che me lo rende, allora, anche, no, curioso. Ti dico una cosa, tutti questi signori che oggi si svegliano perché Corona è in disgrazia e chiedono: ah, ma lui è uno stronzo, mi deve 2000 euro, mi deve 4000, mi deve 5000, a parte che devo vedere le denunce che avete fatto, bisogna vedere le denunce fatte. E secondo, sono come i clienti di Vanna Marchi, sono come quelli ingannati in da Vanna Marchi. Eh beh, questo bisogna dirlo, amico mio. Cioè, tu ti metti a lavorare con Corona e sai benissimo, ti informi su chi è Corona, e notoriamente era uno che non dava un euro. C'era uno tirchissimo, attaccato al denaro in maniera spasmodica, che pagava quando pagava con, beh, grandissimo, capito, ritardo, però. E cosa fai tu? Adesso ti stupisci perché Corona non ti ha pagato? E poi, scusa, uno che vuole pagare per essere il tatuatore di Corona, cioè il tatuatore di Corona non l'ha pagato Corona. Cioè, la cosa incredibile è questa, io non lo sapevo. Cioè, quello che tatuava Corona, sai che è pieno di tatuaggi? Sì, ha pagato questo... per farlo. Ha pagato per, no, farlo. Ma questo ci può stare, un uomo intelligente, Corona si faceva pagare per qualunque cosa, quindi ha, no, usato il suo corpo come un murales. Ovviamente... No, questo anche me lo rende molto simpatico. Ho pagato Corona per tatuarlo, senti. Questo praticamente sono io che tatuo Fabrizio Corona. Siamo nella stanza di Vita Ufficio in comunità di Don Mazzi. Normalmente tu ti fai pagare per tatuare? Di solito sì, viene gente in studio e mi pagano. Invece qui purtroppo ho dovuto pagare io lui per il prestamento alla sua gamba. Pubblicizzare il mio studio, pubblicizzarmi me, visto che ho tatuato un personaggio della televisione. Ragazzi, cioè, prendeva, riusciva a prendere soldi sempre, in qualsiasi, beh, occasione. Una grande macchina invece. Di quattrini, grande macchina di quattrini. Alessio Milano, vai, Alessio, dimmi. Ciao caro. Dimmi. Allora, ma perché su Marte non ci hanno mandato una bella navetta con tutti questi stronzi politici che abbiamo, che sparano cazzate per il sì e per il no e che gliene frega solo di... Su Marte, bravo, su Marte in alcuni casi. La sonda Schiaparelli, ragazzi. Su Marte. Sopravvive, che stanno lì un po', poi dopo... Io volevo fare un intervento su questo buonismo, buonismo che detesto perché impasta... Per esempio, tutto, vai Alessio, bene, vai, per esempio... Impasta il mare. Allora... Questa storia della signora di 140 kg che non l'hanno presa. Sì. Allora io dico, io sono un metro e 90. Ieri intervistata qui alla Zanzara, sì, 140 kg. Secondo te, io sono un metro e 90. Secondo te mi prendevano a fare il fantino? Beh, non lo so, amico mio. Cioè, no, darsi no. Ti rispondo io, no, è ovvio. No. Come, esatto. E come mi prendevano a fare il pilota di Formula 1. Ma neanche in un negozio di diete ti avrebbero preso la signora, come ho detto ieri, ovviamente. Il negozio di diete... Ma la programmatrice, la signora, andava benissimo. Ma appunto, quello che ho detto io ieri. Però non c'è nessuna discriminazione. Quello che ho detto ieri io, esatto. È finalmente uno intelligente, meno male. Ci sono delle cose che non possono fare. Cioè, una che ha una brutta presenza non può fare l'attendista. Ma scusa, Parenzo, hai detto che deve denunciare tutti, no, perché non l'hanno ho presa. Ho detto perché siccome nei posti nei quali si è proposta non era un ufficio per dire, non era una cosa ristorante. Di... un ristorante cosa fai? Mangi, no? Furbo, cosa devi fare? Un ma ristorante? Se uno di un ristorante non vuole una cameriera di 140 kg. Ma cosa c'è? Sarà legittimato a non assumerlo oppure discriminazione? Dai, ragazzi, non diciamo cazzate. Di cosa parlare? Perché il cuoco, come si chiama lì quel cuoco enorme lì, fortissimo, altissimo? Il proprietario è lui. Quello grosso, come si chiama? Quello grossissimo, sì, come sì, si chiama? Cannavacciuolo, quello lì. Non so, è magro Cannavacciuolo. Ah, no, quello il proprietario fa il cazzo che vuole. È magro? Non scordatevi il numero del cuore: 393-71-71-70. Il segnale orario vi è offerto da... Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Ma Ma oggi, caro Parenzo, è arrivata una notizia importante. Una notizia fondamentale. La sonda su Marte. No, non c'entra niente la sonda su Marte. Eravamo non c'è... tutti in grande apprensione. No, a me non perché... me ne frega un cazzo di Marte. Beh, nulla, tu non pensi zero al futuro. La sonda niente, Schiaparelli arrivata su Marte. Va bene, ma chi se ne frega? Questa primi dati trasmessi sulla Terra è una rivoluzione per tutto il mondo. Va bene. Se lo occuperanno quelli che vogliono occuparsi della rivoluzione della sonda ma su Marte. No, ma è una cosa che interessa a chiunque. Va bene, ma hai qualche argomento su questa cosa qua? Hai qualche cosa di originale da dire? No, un cazzo. Sentire qualcuno che si occupa di questo per spiegarmi la portata rivoluzionaria. Benissimo, di questa roba per tutti noi. La notizia fondamentale arriva dal 21.000 km all'ora. Aspetta, ma stai zitto un attimo. Ma sai quanto è 21.000 km all'ora? Ma non me ne frega nulla, stai zitto un attimo. La cosa fondamentale è che Radio Padania chiude. Beh, questo sia una Radio ottima notizia. Padania chiude. No, questa è una buona notizia. Radio Padania chiude perché c'è un imprenditore calabrese. Vabbè, un imprenditore bravissimo. Molto bravo, che c'entra? L'imprenditore calabrese che si chiama Suraci. Suraci è calabrese, è un imprenditore. No, ma la curiosità a me che me ne frega, figuriamoci, non ho nessun problema, anzi lo conosco, una bravissima persona, un grande imprenditore, uno che da una piccola radio di Bergamo, piccola così, ha costruito la prima radio italiana, figurati, cioè un grande un fratello quasi, insomma, per noi. Un fratello, che vuol dire? Non lo so, a modo di dire, fratello. Come dicono gli americani, fratello, allora. È un imprenditore. Comunque è stato un grande perché che lo chiami pappato, un fratello? Lo chiami fratello, no? Sì, fratello, certo. Ma perché fratello? Non lo vuoi chiamare fratello Suraci? Ma non fratello puoi dire Suraci. Fratello, scusa. Faccio anche così col 5, col pugno quando lo vedo. Ma Suraci, no, dammi il pugno. Sai quando ti fanno il pugno? Allora, così che Suraci il pugno è un grande, ma perché, sì, ripeto, da ma una è piccola... un grande perché si è pappato Radio Padania. Oggi diventa ancora più grande. Ottimo. Per un semplice motivo. Per il fatto che per 2,xx milioni di euro ha spazzato via Radio Padania. Un po' mi dispiace, devo dire la verità. No. Non voglio la chiusura di niente. Io non voglio ma la chiusura di nulla. Ma cosa farà adesso? Cioè, ma verrà la cosa curiosa, il gruppo, immagino. No, ma che verrà subito dopo? Ti pare che si piglia Varin, signor Suraci, con Varin e con l'altro Pellegrin, no, che hanno passato la vita rimanda a insultare. No, che ma hanno passato quelli andrebbe. Io ho dei lavori per loro. Potrebbero andare a lavorare nei campi dei profughi, nei campi raccolta profughi e dare una mano. Possono andare lì. Io gli posso trovargli una collocazione lì in quei campi di lavoro. Di aiuto, nelle cooperative dei migranti, a Lampedusa. Anzi, farei così, guarda. Metterei, ecco, ho l'idea. Varin, tutti questi qui, questi miserabili speaker, ma miserabili non per questioni economiche, per le loro idee, per il loro odio, non per questioni economiche. In Calabria a raccogliere i pomodori. No, dici, meglio ancora. Li prenderei, li porterei a Lampedusa. Poi metterei Radio Padania con i migranti appena sbarcati e farei tradurre in simultanea ai migranti appena sbarcati le parole di Radio Padania. Li metterei poi al buio all'interno di questi centri di raccolta coi migranti, no, però, ai quali fornirei delle piccole mazze. Loro in simultanea, i migranti ascoltano le parole di Radio Padania, una compilation, il meglio di complessa, no, è semplicissima, in arabo il best of, no? E poi con una luminare, no, sai quelli del teatro, illuminerei, eccoli qua, questi sono i protagonisti. Dunque, chiuderei il campo e lascerei lì per una settimana Varin a confronto civile con i migranti appena sbarcati che hanno sentito per un giorno quello che questi miserabili hanno detto su di loro. Vediamo come va a finire. Però la cosa più semplice, come appena nel contrappasso, essendo stata acquistata da un imprenditore calabrese, acquistata, cioè le frequenze, eccetera, sarebbe il trasferimento coatto dei signori Varin, Pellegrini e quant'altro in qualche campo di raccolta di pomodori Gioia Tauro e dintorni. Comunque io sono sinceramente dispiaciuto di questo, sinceramente dispiaciuto. No, io no. Un po' sono dispiaciuto. Adesso andranno. Sono anche incerto se mandare il peggio di Radio Padania oggi. Che dici? Vabbè, dopo. Salvatore, provincia di Varese, vai. Pronto, mamma mia che attesa, buonasera a tutti. Cosa che pizza, non ho capito. Che attesa, dico. Ah, che attesa. Un quarto d'ora da aspettare. Metterei anche i politici insieme a quelli di Radio Padania, signor Parenzo. Signor Parenzo, Poreč in Croazia, c'è una bellissima cittadina, Poreč. Sì, sì. Ah, tra l'altro faccio adesso un nuovo percorso per andare a correre. Ogni volta mi si para di fronte, dopo circa 42 minuti, quando sono già un po' affaticato, una scritta con scritto Parenzo e ti giuro, una scritta stradale, adesso la prossima volta porto il telefonino dietro e la riprendo. E i cinque cerchi olimpici. Non è una... come dire, un riferimento al fatto che Parenzo è favorevole alle Olimpiadi. Non penso che abbiano fatto apposta questo. Può anche essere, no, ma non credo. Stimatori. Credo che sia il riferimento al fatto che. Perché è un fisico talmente atletico che, ecco, potrebbe, appunto, fare i 100 metri. I 100 metri. È stupendo questo qua. Certo. Sembra Malgioglio. È Di Nusco, sembra De Vita. No, sembra Cristiano Malgioglio. Certo, ieri sera il signor Parenzo parlava di ristorazione, il signor tuttologo, no? Aspetta, Salvatore, fammi. Fammi finire. Sì, un attimo, Salvatore, fammi finire questa cosa qua. Allora, questo però è simpatico. I cinque cerchi. È simpatico, come una medusa che ti finisce nel costume quando stai facendo il bagno e sei rilassato. Questa è vecchia. Cinque una cerchi. La medusa è il costume. Cioè, vecchia come cosa. Cinque cerchi con scritto Parenzo. Credo che si riferisca a una piscina nella periferia milanese dove vado a correre. Una piscina, c'è, cioè, qualcosa di atletico. E questo effettivamente l'ho visto come una contraddizione. Cioè, vedere i cinque cerchi, cioè il simbolo dello sport, dell'attività, certo, eccetera, accanto al nome Parenzo. E beh, un po', cioè, vedo sempre questa contraddizione. Beh, ogni volta che passo da là vedo cartello statale scritto Parenzo e cinque cerchi. Oddio, ho un attimo di un brivido, un attimo, e poi prendo la curva e non lo vedo più. Allora, Salvatore, che volevi dire? Ma guardi, volevo parlare col signor Parenzo, il tuttologo, che parlava ieri sera, esperto di ristorazione, sì, e non si domandava neanche quando fosse alta una ragazza di 140 kg, perché sa, un cameriere anzitutto deve essere atletico, perché bisogna correre in mezzo ai tavoli, se c'è tanta gente, magari un cameriere fa pure fatica quando è alto e magro. Figuriamoci una ragazza magari alta 1,60 m di 140 kg. Cioè, ma che vuoi dire, Salvatore? No, è una riflessione profondissima che ha fatto. Grazie, certo, per aver chiamato. Lei quanto tempo ha lavorato nella ristorazione, signor Parenzo? Mi fa tanto rispetto. Mai. Allora, che cosa ne sa dei problemi? Che cosa ne sa della vita di un cameriere? Di che lavoro è il cameriere? Tu fai cameriere? No, ma però non è con la G, è cameriere, non cameriere. Ma questo ha l'accento così. No, ma lo dico per... Alfano, il signor Alfano, altri politici non li corregge mai, che della gente sempre se uno parla, certo, io dico, certo, si dice, certo, si tu dice fai cameriere e non cameriere, certo, ma va benissimo comunque, certo, guarda, certo, ho certo fatto il cameriere, iniziato questo, a 14 anni a farlo, lo sì, per cui un cameriere di 140 kg non passa in mezzo ai tavoli. Hanno fatto bene a non assumerla quella signorina di Firenze, è un ambiente stretto e non riesce a lavorare, è abbastanza normale. Poi le volevo dire anche, signor questo Parenzo, è stupendo comunque, eh. Signor Parenzo, sì, che c'era tanto su col fascismo, a parte che io non sono né fascista né comunista, però sa, ci sono alcune cose del fascismo oggi che si usano ancora, tipo le questure, certo, le prefetture, poi di cazzate ne ha fatte tantissime il Duce, tipo, certo, le leggi razziali. Ma non sapevo questo, ma lei lo sa le che strade, ci sono le bonifiche che ha fatto nel ventennio che si usano tuttora? Sì, il codice Rocco. I patti lateranensi, cioè, ma non lo sapevo, purtroppo. Sai che questo non lo sapevo, sai che non lo sapevo questo dei patti lateranensi del 1929, non lo sapevo, sai? Non lo sapevo, sai? Meno male però che hai telefonato all'800 24 0024, caro. Meno male. Prego. Comunque, se è vero questo cameriere della provincia di Varese, Salvatore, che assomiglia a Malgioglio, è stupendo, è meraviglioso. Meno male. Maurizio da Trapani, vai. Fa pure il cameriere, pure lui, dico, fa il cameriere. L'unica cosa che leggo qua è fa il cameriere. Maurizio, dimmi. Vabbè, questo va benissimo. Dimmi, Maurizio. Pronto, buonasera. Dai, forza, basta con questi buonasera, non ce ne frega un cazzo. Allora, anch'io faccio il cameriere, da 14 anni che faccio il cameriere. Che vuoi dire, hanno fatto bene a non assumere quella cicciona o no? A proposito di quella cicciona, diciamo cicciona, che... io dico senza dire, cicciona del merda, cicciona, una persona grassa, obesa, come dire, non so. Esatto. Allora? Diciamo che per problemi tecnici molto spesso ti trovi a lavorare in posti in cui gli spazi sono molto stretti. Vabbè, allora, al di là delle questioni tecniche, tu fai cameriere, quindi, no? No, quindi persone molto grasse farebbero difficoltà a passare e molto spesso vengono rifiutate. Però a volte io mi sono ritrovato in una situazione, nel corso di tutti questi anni, in cui veramente mi sono sentito maltrattato, cioè? discriminato proprio per la mia magrezza. Discriminato perché è magro, vabbè, Maurizio, dai, già discriminato perché obeso è una cosa quasi ridicola, discriminato perché molto magro, alto, è ancora più ridicola. Perché dovresti essere stato discriminato? Spiegami. È molto esagerato, perché le racconto questo che ormai esagerato lo racconto o no? Esageratissimo. Sei stato discriminato o no? Sì, sì, discriminata in maniera esagerata. In maniera esagerata, sì. Sì, qual è l'aneddoto? Qual è il nanetto che vuoi raccontare? Non ho capito. Perché io ho lavorato... L'aneddoto, ho capito, come i politici raccontano gli aneddoti, i nanetti. Adesso Maurizio Trapani racconta il suo nanetto. Perché no, sì, può fare. Esatto, no, ormai lo racconto come una curiosità. Ma lo racconti a chi? A chi lo racconti? Agli amici? Agli amici, ai conoscenti, a tutti quelli che... Allora, io mi sono ritrovato a lavorare in questa struttura, in un hotel, un hotel 4 stelle, e avevo iniziato così, a fare qualche servizio extra. Ti giuro, se non è un racconto interessante e originale, ti mando a fare in culo, Maurizio. No, no, no, no, no, ma è un racconto interessante e sicuramente veritiero. Ho lavorato lì, non ho conosciuto mai il proprietario, ero pochi giorni poi? Lavorato lì. Un giorno capitò che io feci un servizio lì, e si presentò quest'uomo alto, sì, che non conoscevo, sì, e mi fece, dice, ma lei deve mangiare, mi disse così. Io non conoscendolo gli ho detto, guarda, io se per questo mangio anche più di lei, ho il metabolismo veloce, sì, dice, allora dovrebbe fare un po' di palestra. Ma guarda, io mi sono provato a iscrivermi in palestra, però non mi sono trovato bene. Vabbè, poi? Dice, no, guardi, perché nella ristorazione bisogna essere alti, bisogna essere impostati, perché viviamo nella società dell'immagine, e quindi allorché un mio collega, un collega che mi aveva chiamato professionalmente per la mia professionalità, mi aveva chiamato a fare questo servizio, mi ha detto, guarda, innanzitutto questo è il proprietario, quindi me l'ha presentato perché non lo conoscevo. E alla fine sei stato cacciato? No. E il mio collega... Ma dov'è l'interesse di questa cosa, scusa? Ha tratto, no, il mio collega ha tratto la mia difesa, facendogli notare al proprietario, cioè, guarda, ma lei, scusi, di fronte, se dovrebbe assumere una persona, gli ha detto, di fronte a un palestrato, a una persona che ha molta professionalità, chi sceglierebbe? Allora? Sa cosa gli ha risposto? Cosa? No, io scelgo il palestrato. Dice, anche se non sa fare il lavoro professionalmente, dice sì, va bene. Questo sarebbe il racconto? Questo sarebbe il racconto? Questo sarebbe il racconto? Questo è quello che mi è capitato. Ma vai a fare in culo. Ciao. Sei di mattina, North Yorkshire, solo i cucù di Parenzo e gli eccetera eccetera di Cruciani. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. A Genova, Marassi, vicino allo stadio, c'è Piazzale Parenzo. Voglio anche Viale Cruciani. Però questa cosa dei nomi Parenzo mi ha fatto venire in mente un'idea. Nei prossimi giorni della cucina, David, nei prossimi giorni di cucina, aiuto, una cosa interessante, aiuto, sul aiuto, cognome Parenzo, sul cognome Parenzo, ma anche sul mio, lo posso fare tranquillamente, figuriamoci. Allora, adesso io, se la pigliano sempre con La Zanzara, alcune persone ogni tanto mi incrociano e mi dicono, ma perché lei parla in maniera così volgare? Ogni tanto sì, anche a me, delle molto, mail, molto. Molte persone. Allora, io vi faccio leggere quello che c'è scritto sulla rubrica delle lettere del Corriere della Sera. Lo temevo questo. Del guarda. Corriere della ma Sera. Ma non c'entra niente. No, ma un conto il è Corriere scritto, della ma è uguale. Un conto è detto, perché è uguale, scritto è uguale, no, è, uguale, è, uguale, è uguale. Il Corriere uguale. Della Sera, che spesso sta nelle case degli italiani a disposizione tranquillamente di bambini di 13, 14, 15, 16 anni. Va benissimo, per me non c'è problema, figuriamoci. Però dico che questo è non nelle lettere, che ne so, di delle Ore, se esistessero ancora Le Ore, il giornale Le Ore, ve lo ricordate, no? Chi non l'ha compulsato da giovane, il quotidiano, anzi no, il settimanale, mensile, quello che cazzo era, Le Ore. Io guardavo Il Sole 24 ore, no, non Le Ore. Tu dimmi che non hai mai letto Le Ore. No, mai letto. Tu non sai nemmeno che cos'era Le Ore? So perfettamente che cos'è, perché la cultura generale è abbastanza sufficiente. C'è Super Sex, l'hai mai comprato? So cos'è, ma non l'ho mai comprato, non figurati. Cioè, magari... tu non hai mai letto i fotoromanzi porno di Super Sex, sono i fix? No, magari me lo ha girato qualche amico che lo aveva, l'ho sfogliato 5 minuti, ma non è che però mi mettevo lì a leggerlo. Però la domanda di cultura generale, sai che cos'è la espressione i fix chen? No. Lo sai o no? Assolutamente no. Ragazzi, Parenzo non sa che cos'è l'espressione, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, che sono sicuro che lo sanno, non sa che cos'è l'espressione i fix t'chen t'chen. Non è possibile non saperlo per chi ha più di 40 anni, per chi ha più di 40 anni, forse anche 45, non è impossibile non saperlo, impossibile. Ma anche molte persone più giovani lo sanno. Io guardavo ogni tanto i film del maestro Tinto Brass, ad esempio, vabbè, quello molto. Robetta, dai. La chiave, ottimo film, sì, vabbè, una d'accordo. Fotografia comunque, straordinaria. La rubrica racconto delle lettere del Corriere della Sera, sì, una delle tante rubriche su quello del blog delle donne, eccetera. Vorrei fare sesso anale con mio marito, anche sesso a tre, ma lui non vuole. Ormai mi masturbo raramente, ho provato con un vibratore, non mi convince. Ragazzi, non è un sito di questi qua pornografici, non sono le lettere su Io Donna o no, è il Corriere della Sera. Giustamente un avvocato di cui non faccio il nome mi dice: beh, i Fixat Centcene, ragazzi, è il mitico Gabriel Pontello che eiacula. Cioè lui, quando veniva, il signor Gabriel Pontello, che non so che fine abbia fatto, nel fotoromanzo Super Sex c'era questa scritta: i Fixat Centcene. Ragazzi, questa è cultura, veramente cultura generale, non è una cosa pornografica. E comunque, ragazzi, siccome il Corriere della Sera mette nella lettera nella rubrica della Posta anche queste lettere qua di problemi relazionali, uomo, donna, questo sesso, è giusto, eccetera, eccetera, se ne parla qui tranquillamente, dai. Allora, andiamo a Caserta, Nino, vai. Pronto? Vai, pronto, pronto. Giuseppe, ciao, volevo dirti due cose, se tu me lo consenti. Ma tu puoi dire quello che ti pare, figuriamoci. Sì, allora, la prima è che, insomma, hai perso una buona occasione di per stare zitto. Ma quello io perdo spesso tante occasioni per stare zitto, non è la prima volta. Criticando le interviste che Berlusconi ha lasciato al Canale 5, e quindi è da cretini non capire che Berlusconi voleva comandare col 51%, ma in senso democratico, il 51% dei invece votanti, gli altri no. Senti. No, perché Renzi vuole farsi, vuole comandare da Costituzione, con una Costituzione. Senti, amico mio, al di là, sì, ma al di là dei dettagli, diritto al voto. Sì, ma al di là dei dettagli, Berlusconi che dice che c'è il rischio autoritarismo, il rischio adesso uomo solo, sì, al comando. No. Ma che uomo solo al comando, quando voleva non essere pare, lui, l'uomo solo al comando, voleva essere lui. Perché poi questa cosa è l'uomo solo democratico, lui voleva essere perché eletto. E invece Renzi che cos'è? Non voleva essere eletto Renzi, non vorrà essere eletto, vorrà essere eletto. A decreto legge sta andando avanti. Cioè, vabbè, lui Berlusconi ha fatto più decreti legge, Berlusconi ha fatto una marea di decreti legge. Poi c'è un vulnus, c'è un peccato originale che è quello che non è stato eletto democraticamente. Su questo non c'è dubbio, ho sempre detto. È stato eletto con un passaggio come quando è stato eletto come prevede la Costituzione, con un passaggio certo, parlamentare. No, contro la Costituzione mi pare difficile essere appunto, diventare presidente. Appunto, quindi vuol dire che non questo è... Grazie, ma questo certo. Beh, insomma, se no si sottende sempre che è stato fatto con metodi non democratici. Comunque, cioè, non dire che non è passato... la Costituzione con il 15% degli aventi diritto. Ma non è vero. No, lo cambia il Parlamento, così, non lui. Questo è un errore. La Costituzione, a me non, io non dirò mai se mi piace o non mi piace la riforma, e cosa voto non lo dirò mai, perché non è. Però voglio dire, non è il Parlamento che ha deciso di votare questa riforma, e il Parlamento è stato eletto. Quindi è un errore dire che è una roba non democratica. Franco da Napoli. Che cavolo vuol dire? Franco da Napoli, vai. Franco, oh. Buonasera. Dai, forza. Buonasera, Cruciale. Buonasera, non lo devi dire in questa trasmissione, non me ne frega niente. Buonanotte, ti volevo chiedere. Dimmi buonanotte, bravo, meglio. Se posso darti del tuo. Sì, puoi fare quello che vuoi. Ma come mai ultimamente hai preso così di mira Napoli? Al di là di tutte le ragioni oggettive. Io non ho preso di mira Napoli per niente, guarda. Cioè, no, di tutte le ragioni oggettive. Come mai qualsiasi cosa ci sia sempre un discorso di Napoli? C'è qualche problema? Non lo so, qualcuno ha interferito nella tua vita? Perché prima facevi delle trasmissioni con un senso logico. Adesso inizi una volta Napoli, una volta Napoli di qua, una volta Napoli di là. Io capisco tutte le ragioni, posso darti tutte le ragioni del mondo, ma c'è una volta che puoi mettere anche altre regioni, altre città che hanno il lerciume e la merda, come può essere Roma, che è la tua città? C'è una volta? Guarda, su Roma abbiamo dato... I difensori di tutti forse mai una volta che prendesse almeno su Roma abbiamo da dato te. Su Roma abbiamo dato ampiamente, direi. Ma non lo vedo che hai dato ampiamente. Ti sbagli, insomma, non ha seguito, si vede. Ti sbagli. No, seguo ogni tanto, lo dico a difensori di tutti i deboli di tutto il mondo, che non lo so, difende tutti, però quando c'è da difendere su cose ciao logiche... Umberto Milano, vai. Aspetta, aspetta, a proposito di Napoli, fermi tutti. Carlo Alvino, il mitologico conduttore radiofonico e televisivo napoletano, Carlo Alvino tratta così un ascoltatore che non tifa Napoli, per chi ovviamente capisce il dialetto, altrimenti poi facciamo una traduzione simultanea. Bernardo, se c'è, pronto? Ciao Carlo. Eccoci qua, forza Napoli. Non lo mai. E allora arrivederci, buona giornata, ciao. Non lo pensa mai che vai in onda a Kiss. Non lo pensa mai che vai in onda a Poro Bombero, però non lo pensa mai che ti rongo confidenza. Ma veramente facciamo, ma che stanno dando i numeri saranno bangolot, amico mio, e se devi andare a giocare i numeri vattela a giocare 23, 71, gioca di quello che vuoi, mettici una cosa sorda e se vinci ricordati anche di noi, va bene? Non lo pensa mai, ma senti, ma guardate, ma è vergognoso sentirlo in napoletano nella nostra amatissima lingua. Senti, forza Napoli, non lo ponzo mai, mamma mia, no, più forte me ci riesci, che ci devo commentare sopra, Ciro, dice Ciro, vai avanti, hai ragione, ma i riscienziella mi vengono. Allora, l'unica cosa non l'ho capita, l'ultima cosa, i riscienzielli, dice, saranno i capelli dritti, non lo so. Hai capito qualcosa tu, David? Nulla. Allora, una sequela di insulti, che si è arrabbiato semplicemente perché non ha detto forza Napoli, mi pare. No, perché quello là, lui gli ha detto forza Napoli, quello ha detto non lo pensa mai. Non lo pensa mai. Cioè, nel senso, vabbè, non esiste forza Napoli, no? E quello ha dato di matto perché non poteva non chiamare un tifoso del Napoli, secondo lui. E poi ha dato anche due numeri del lotto, adesso non mi ricordo quali sono, che credo che da uno giocare, di... sì. Sì, uno morto di questi, credo. Uno di questi che sia, sì, sia il morto, e l'altro credo un pezzo di merda, una cosa del genere, così mi hanno detto, eh. Buono. Il peggio di Radio Padania, vai. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava un negro con tanto di ciabattine di plastica, nella fretta di ripararsi mi aggancia al bastone, mi urta, mi butta in terra. Io ho detto ma vaffanculo, tornato indietro, mi ha tirato un calcio nel fianco, la mia piccola moglie ha raccato sul bastone cercando di dargli una bastonata, però non c'è riuscita. Però il compenso, il negro mi ha detto guarda dove cammini, vecchio italiano di merda, tutto lì. Ma queste cose succedono solo a questi. È eccezionale questa roba qua. È eccezionale, senti ancora. Che paese, che paese, che radio. E questi stessi bastardi comunisti di merda slavati stanno aprendo le porte a cani e porci soltanto per poterli utilizzare. Libertà! I comunisti stanno aprendo l'Italia a cani e porci. Quel signore che è andato negli Stati Uniti con dietro quella corte di miracoli, di cialtroni, cialtroncelli e tirapiedi, si è dimenticato di portare uno dei suoi maggiori successi. Un finocchio se lo doveva portare dietro, visto che ha fatto la legge che i finocchi possono fare di tutto adesso. Ma i finocchi non li ha portati. Un Luxuria, per esempio, non se lo poteva portare? Ma questo è buono, dice, perché Renzi non ha portato un finocchio da Obama? Dice. Comunque è incredibile il livello, veramente è il senza freni, cioè proprio ormai... Io lo trovo, io non meraviglioso. So, cos'è una cosa brutta che non hanno io detto? Io lo trovo meraviglioso, se fossi su Raci non mi prenderei il calabrese, l'imprenditore, il calabrese, adesso molti hanno scritto, molti siti, un calabrese compra Radio Padania. No, ragazzi, non è un calabrese, cioè è un genio che ha trasformato una radio piccola di Bergamo in una radio, nella prima radio italiana, per cui non è un calabrese compra Radio Padania. Comunque è curioso. curioso che un imprenditore calabrese spazza via tutto quello che avete sentito, perché fra poco questo succederà. No, ma è curioso, per il senso, per quasi una legge del contrappasso, no? Cioè, sì, quasi, beh, certo, meraviglioso. Sono certo, convinto che gode, signor Suraci, gode, sì, come un pazzo. E io sono molto felice che l'abbia acquisita lui. Dopodiché, se l'avesse acquisita anche l'Emiro del Qatar, ma no, peggio sarebbe stato. O un imprenditore senegalese, altra legge del contrappasso. Meraviglioso, un imprenditore senegalese che arriva lì e dice: scusa, fratello, cosa stavi dicendo tu, fratello mio? Prende quello, vedi che sbianca definitivamente. No, no, no, ma io in realtà, migranti, intanto. Però c'è una buona rubrica. C'è una buona rubrica che si chiama Caterpirla a Radio Padana. Caterpirla. Ah, ma sono anche originali nella creatività. Caterpirla, in cui c'è una scelta, un sondaggio: chi è più pirla, Alessia Morani o David Parenzo? Ti giuro, fanno ti mettono sempre in mezzo. Senti. Sempre nei sondaggi mi mettono. Sei un pirla e c'è la faccia da pirla. Siamo arrivati alla seconda giornata, vi ricordo 8 qualificati in 2 gironi da 4 ciascuno. Oggi andiamo alla prima partita della seconda giornata, quella che vedrà impegnati nella giornata di oggi il campione in carica di Caterpirla, David Parenzo, contro Alessia Morani. Pirla, ma sei un pirla. Ricordiamo girone A, in questo momento dominato proprio da David Parenzo e dall'elettore medio del PD. Questo è buono. Questo è stranamente anche divertente, perché senti gli ascoltatori come ti trattano. Sentiamo. Sono Giancarlo, ciao. Parenzo non può perdere, dai. Pronto? E Pirlenzo sia. E con queste 2 telefonate vedete che il voto doppio della telefonata ha sempre il suo effetto, 17-13, e con l'SMS che abbiamo appena ricevuto va addirittura 18-13. Servi di Roma fuori. Ascolta, io Parenzo anche per te. Un Isonzo ha detto. No, no, è delle parti dell'Isonzo, mi sembra aver capito così. Pronto? Parenzo, senza dubbio, è immenso, non posso dire altro. Grazie mille, 36-18, insomma, è il distacco di quasi 20 lunghezze tra Alessia Morani e David Parenzo. Guida il popolo nella tempesta, come una madre il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Allora, vogliamo sentire dal mitologico Pellegrino di Radio Padania se è arrivata un po' di induia. Se è arrivata un po' di induia. Più tardi lo sentiremo. Allora, dove andiamo? Federico, Roma, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Anzi, no, c'è niente, buonasera. Andate a fanculo. Volevo dire solo una cosa. Adesso non c'è bisogno, adesso c'è differenza tra buonasera e vaffanculo. Vabbè, scusami. Buonasera, non ti comunque, piace, si vuole mandare a fanculo, mandami a fanculo. Eh beh, certo, comunque a fanculo, perché da quando vi sento, per diversi anni, sono diventato una persona peggiore. Però vi continuo a sentire. Ma come una persona peggiore? Che vuol dire una persona peggiore? Questa qua è una cosa folle, dai. Lo so, ma è vero, però da quando vi sento sono diventato una persona peggiore. Però si continua a sentire, si diventa una brutta droga, come tutte le droghe, la continuo a assumere. Ma non volevo dire questo, volevo dire un'altra cosa. Io ho un ristorante dove ho da sempre, da quando ho iniziato a lavorare 12 anni fa, le ragazze che devono servire devono essere comunque carine, perché lo vedevo io, sono in America dove c'è questa cosa, le ragazze che carine lavorano nei ristoranti e si andava nei ristoranti anche per vedere le ragazze che servivano ai tavoli carine. E allora? Parenzo è venuta a mangiare nel mio ristorante e se le spizzava, come si dice a Roma, se le guardava. Quindi adesso non faccio. Scusi, dice, no, non ho capito una cosa. Ma questa è una bella delazione. Anche, una bella delazione. Può essere anche accaduto, ma mi dice quale ristorante, però. Ma no, non faccio mica pubblicità qua adesso, perché non so più. Lascia perdere. Non è che può dire che. Non è che può. Non è che può dire che io sono venuto al vostro ristorante e ho guardato le vostre cameriere, cioè, assolutamente, così, senza rivelare, perché magari. No, io magari sarei pronto a dire. Io magari sarei pronto a dire che sono venuto, se è vero che sono venuto, non ho problemi a nasconderlo. Poi per fortuna ha conosciuto anche la sua signora ed è stata una bella. Vabbè, guardavi le donne, dai, su, ma non c'è niente. Lei ha conosciuto anche la mia compagna, ma mi dice in che zona sta il posto, almeno per. No, perché uno non è che telefono e fa la delazione così. Diciamo Roma Nord. Vabbè, Federico, allora. A Roma Nord, ma che cazzo vuol dire Roma Nord? Cioè, anch'io posso telefonare e dire questo qui fa il cambio catetere. Ok, quartiere Trieste. Va bene? A quartiere Trieste vado soltanto in un posto a mangiare, che non dirò qual è. Vabbè, Federico, dai, ma qual è il punto? Non siamo qua per dire. Il punto è che Parenzo, che dice no, per la città, secondo me è un po' una sciocchezza, ha detto. Poteva lavorare, poi effettivamente ha gradito il fatto che ci fossero le ragazze carine a servire. E quindi non facesse adesso il finto buonista. Secondo me lei però... si sta facendo una pubblicità non dovuta, perché ma non ha detto manco realtà... il nome, vabbè, non ha detto manco il nome. Però lascia sottendere che sì, le conviene attaccare. Attacca. Le conviene attaccare. Ciao, a tutte e due. Ciao, se non ha prove è meglio. Umberto Milano, vai, Umberto Milano. Umberto. Pronto? Eccomi qua. Dai, forza. Gianni, ciao. Forza. Ciao a tutte e due. Forza, allora, e coraggio, dai. Sì. Ascolta, allora, il numero, vabbè, che ti mancava prima del signore napoletano è 71 uomo di merda, ok? Ah, 71 uomo di merda, sì, bene. Ok, perfetto. Poi niente, volevo dire a Parenzo che ha fatto... ciao Davide, niente, hai fatto un po' di confusione con la ragazza cameriera e dopo il... Ok che era titolare, che hai detto il cuoco, ma sì, se la ragazza fosse stata una cuoca, nessuno gli avrebbe detto niente. Assolutamente, al contrario, è pieno di cuoche e grassone. Certo. Perché il cuoco è dietro, parlo per esperienza, sia per la taglia. Comunque, scusi, il fatto che si che la cameriera debba essere per forza molto carina, avvenente, con ma la gonna molto corta... Ma se uno vuole così... Ma se... è quello che cerca la gente... Davide, quello che cerca la gente... Ah, guarda, io penso che il titolare di un locale, oltre a guardare questo, guarderà anche l'efficienza, la bravura, la capacità di dialogare con ma i clienti. Sì, ma se mi sembra un discorso scegliere... veramente... Ma se così... quello cerca, se quello cui si è rivolta quella, bar, ragazza di Prato, appunto, quella ragazza di Prato cercava una figa... Cioè, uno non può dire discriminazione solo perché ti hanno detto guarda, purtroppo l'obesità, sei troppo grasso, è un problema, 140 kg... E purtroppo mi dispiace, ah, ecco, vedi, mi scrive Francesco, che è un mio amico, andava a fare la cuoca, no? Così almeno non aveva problemi. Non la sa fare la cuoca. Un bancario Francesco che mi scrive che ha individuato qual è la trattoria. Silvano, forse. Bergamo, vai Silvano, grande amante della gnocca sta. Pronto? Francesco qua, te lo dico io. Dimmi. Silvano, dimmi. Sì, ciao, buonasera. Allora volevo dire, visto che c'è questa nuova possibilità di andare su Marte, sì, sì, Parenzo, Ciccio Bello Renzi, tutti i clandestini, sì, extracomunitari, la Borghi, ha dimenticato gli zingari, ma perché, eh? Ma perché non vanno, scusi se mi intrometto nella telefonata, Marte, ecco, ha dimenticato coglioni, gli zingari anche, aspetta, anche gli storpi, gli zingari, Ron e tutti i suoi, ecco, Ron, no, Ron, ha dimenticato Ron, poverino, no, su, sì, su. Ha dimenticato, aspetta, che ti richiamo, anche fermo, gli storpi ha dimenticato, se vuole, perché aspetta Silvano, i non mendicanti, te ne ha dimenticato i mendicanti, aspetta Silvano, sì, fermo lì, che bisogna scandagliare qua, c'è molto da dire ancora. Non ascoltare la zanzara è peccato. La zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Buonasera Zanzara, vorrei avere il numero di Mauro da Mantova, per favore, vorrei uscire con lui, grazie. No, ma Parenzo, questo è incredibile, eh? Cioè, tu lo sai che ci sono delle persone che mi chiedono il numero di Mauro da Mantova? Beh, ma il mondo, ma ti ho detto, c'è no, gente, beh, anche che va a scavare nei cimiteri per trovare i cadaveri. Ci sono persone che mangiano le proprie feci, come tu hai documentato. Ci sono persone che bevono la propria urina. Ci sono farabutti, ci sono ladri, assassini, stupratori. Cioè, una parte del mondo fa schifo e tu lo rappresenti molto, no, bene ogni sera qua. Ho capito. Quindi però... io non mi stupisco del fatto che qualcuno, oppure lo vogliono come quando vai allo zoo, no? Cioè vai allo zoo, prenoti la visita su Ticket One, adesso no, non ma voglio fare pubblicità di seria. Ci sono delle persone, appunto, che hanno degli appetiti sessuali verso Mauro da Mantova. No, adesso, perché lo considerano un fenomeno da baraccone, no, cioè questa dicono... che ha chiamato e ha lasciato come Euro Disney. No, ti posso assicurare, questa qua che ha chiamato, questa che ha chiamato vorrebbe veramente, sì, incontrare Maurone da Mantova. E io direi che potremmo fare sole, questo incontro, organizzare radiofonicamente questo incontro, potrebbe veramente provocare grandi scintille questo incontro. Tu scherzi, ma è così, eh? Beh, quello è stato anche mollato dalla moglie, no, mi pare? Sì, tempo fa. È stato accannato dalla moglie. Con la figlia non ci parla. A Mantova è considerato un miserabile. E effettivamente non gli è rimasto nessuno. Sì, può essere un'idea. Mi pare, perché... Non lo so, questo lo dici tu, io. No, mi pare di che, dagli elementi che abbiamo, che ogni tanto questo fornisce, sì, con la sua, sì, adorabile voce. Sì. Per cui... Sai perché mi ha abbandonato mia moglie? Benedetti! No, perché sei un cretino. E lo hanno capito tutti. Sai, mia figlia non mi parla più! Sai chi è stato? È stato Madoff! Dice, no, guarda, il finanziere Madoff è in galera a New York e non c'entra assolutamente niente. Sai perché? È Lehman Brothers! Guarda, no, che Lehman Brothers con gli scatoloni, hai, sei tu che hai fatto quella fine lì che tua moglie ti ha mandato fuori a pedate nel sedere. Non è colpa di Lehman Brothers, è tua moglie che ti ha preso per un orecchio, ti ha preso le tue quattro bettovaglie e ti ha buttato fuori da casa, capito? Dai, perché? No, non è la finanza, il compl- non è il co- esatto, non è il co- sai chi è stato? E dice, chi è stato? Era mio tof! Guarda, Minotaur purtroppo è scomparso tanti anni fa, non c'entra niente. Sei tu che sei un sai povero malato di lente. Sai chi mi ha ridotto l'astrico? Sai chi mi ha rovinato? Sai chi è stato che non ho lavoro? Se lo vede che. Sai chi è? Monti, sai Monti chi è fissato con Monti. Monti! Monti non sa neanche chi tu sia, perché Mario Monti è stato tra Bruxelles, Roma e New York e non ha neanche idea, per fortuna sua, di chi peraltro sia Mauro Mantova. Peraltro vota come lui al referendum, credo. E che... peraltro è esattamente come te al referendum, cioè vota no. Quindi? E allora sai chi è? È il Bilderberg! Dici, guarda, i signori del Bilderberg, che per fortuna esistono, hanno cose più importanti da fare che occuparsi di un povero imbecille, idiota, miserabile, pazzo, malato di mente come te. Tu non conti niente. La gente, nessuno, non conti nulla, se non per questa trasmissione che purtroppo ti ha dato un posto dove salire e dove dire le tue fregnacce. Ma nella vita reale non conti niente. Anzi, la gente a Mantova ti sputa se ti vede, perché ti considera un'ignominia di quella città. Su questo sono contrario, devo prendere una posizione molto chiara. Soltanto per colpa tua e di questa trasmissione che il nome di Mauro, altrimenti sarebbe finito nel dimenticatoio della storia. Sai che è andato a rompere il cazzo anche al sindaco di Pesaro, a Ricci? Sì, ma cioè, ha chiamato lì, diciamo, sono un disturbatore della zanzara, che cazzo fai in televisione, perché non stai a governare? Ma dove l'ha città? Chiamato? Ha chiamato al comune, ti giuro. E capisci, è una persona disturbata, è una persona che va aiutata, è una persona, è un malato, dai, Allora, eravamo con Silvano da Bergamo, che vuole mandare Parenzo su Marte insieme anche a Renzi, ecco, la Boschia, sì, e quant'altro. Sì. Silvano, dimmi. Sì, allora niente, come niente. Dicevo prima, poi ce ne sarebbe altri da aggiungere, ci mettiamo anche Vendola, anche tanti culattoni della televisione, come che ormai no? Hanno rotto i coglioni anche sì, loro. Sì, anche quelli. Ma chi sarebbero questi culattoni della televisione? Tutti, facciamo l'elenco. Ormai si vedono solo culattoni, io la televisione non la guardo più. Sì, chi sarebbero sti culattoni che si guardano? Facciamo nomi e cognomi, Silvano. Lo sapete anche voi. Ma no, sono, lo sai, no? Tu lo sai, io sì, lo c'è so. C'è Platinette, c'è quell'altro lì col ciuffettino bianco, l'altro frocio lì, come si chiama? L'altro col ciuffettino bianco. Malgioglio, si chiama Malgioglio. Malgioglio. Sì, vabbè. Io non ne posso più, sono arrivato a 60 anni per vivere in un mondo di culattoni. Vabbè, amico mio, però devi accettare quello che è la realtà. 45 anni che lavoro, quell'altro coglione di Firenze dice che per andare in pensione devo fare un mutuo di 20 anni. Scusami, ma anche tu sarai un po' frocio dentro di te, no? No, io non sono frocio, hai sbagliato tu. Avrai anche una piccola parte l'antica. No, una piccola parte di te, ma femmina, ce l'avrai anche tu. No, niente da fare, no. No, ma i Rom, forse, com'era la storia dei Rom che non ho capito? Forse ti confondi. Anche loro, tutti gli amici di Parenzo, stupratori, ladri. Ma io non ho amici stupratori, sì, francamente. Tutti su Marte insieme a Parenzo. Sì, chiedo scusa, professore. Io però non ho amici stupratori. Lei ha contezza diversa? No, non è che hai gli amici, li difendi. Mm. Io difendo gli stupratori. Io difendo gli stupratori. Ah, perché Librandi è uno stupratore, non ho capito. No, portatevi anche quello. Anche Librandi. Quello. Senta, sai i malati. Sai che coraggio ho avuto una sera di quest'estate? Sì, dimmi. Va a fare degli interventi nelle feste della Lega. Qua dimostra che quelli della Lega è brava gente, se no l'avevano già menato. E vabbè, no. Intanto nessuno l'ha mandato, nessuno gliel'ha picchiato, però. No, sto dicendo. Perché che se tu lo vedi in faccia, che fai? Se tu lo incontri per strada. Tolleriamo anche Librandi, vabbè, tolleriamo tutti, però adesso non se ne può più. Ma scusa, perché no? Se lo incontri per strada, tu che gli fai? Non ho capito. No, l'ho incontrato, io non gli faccio niente. Te la sei fatta sotto. No, gli ho dato la mano. Lo insulti e poi gli dai la mano. E gli ho detto, perché io volevo parlargli, lui pensava che volevo dargli la mano, perché come se a me mi interessava di dargli la mano, ma ha messo la mano, educatamente gli ho preso la mano, gli ho detto, Fammi un piacere, salutami quel coglione di Monti e quella baldracca della Fornero. Beh, adesso amico mi sembra forse un linguaggio un po' esagerato, sì, questo, un sa? Linguaggio esagerato, sai mi sembra, cosa Mi ha risposto, va bene. Va bene. Va bene, va bene. Fermo va bene, va bene. Col, le avrà risposto, va bene e col vino le avrà risposto, è col vino che cercava. Perché, no, il vino quello che si beve lei in eccesso. Aspetta, stai fermo lì, Silvano, stai fermo lì. Giulio, Giulio da Genova, stai fermo lì, Silvano. Giulio da Genova, dai. Che gente. Cruciani, Parenzo, dimmi. Vi cito per danni. Perché? Meno male. Perché se non ci credete, venite a controllare, mi si è abbassato di svariati centimetri il livello del pavimento della mia camera, sì? A furia di camminarci avanti e indietro da solo come un deficiente per aspettare di poter parlare con voi. Vabbè, amico mio, però funziona così, dai. Giulio, adesso non cominciare a rompere le balle con sta storia che sono stato ad aspettare al telefono. Per carità, ti chiediamo scusa, si dovrebbe aspettare di meno, però va così la vita. Se, scherzo, uno, se scherzo, uno non vuole, abbassa il telefono, punto e basta. Se sei rimasto significa che hai sopportato e adesso hai qualcosa da dire, spero, di molto interessante. Vai, Giulio. Interessante, perché vediamo. Il livello della mia camera si è abbassato, invece io questa sera mi sento molto sollevato, ecco, mi sento molto sollevato dal sentire che tu sei in forma, che stai bene, che sei scattante, perché dopo l'altra sera io come radioascoltatore ti assicuro, non è uno scherzo, ti assicuro che io ero in pena e avevo il patema d'animo per te, perché tu avevi usato parlare di Maometto alla radio. Lo so. Riportando, tu non hai detto niente, tu hai semplicemente riportato un episodio. No, non solo quello, devo dire la verità, no. Non ho solamente riportato. No, se no sarebbe veramente un'inesattezza. Ho detto che tecnicamente il consigliere della Lega aveva pienamente ragione, ma quello me l'ha chiesto, adesso lo ripeto. Tecnicamente, no. Perché la scienza medica... Però non mi sono limitato a questo, io ho la mia opinione sull'Islam, sul modo in cui l'Islam tratta le donne, il modo che non c'entra in cui nulla con donne. Questa vicenda, questa interpretazione fallace che date del Corano senza sapere nulla, ma comunque non importa. Non c'è nessuna interpretazione. Date interpretazioni senza sapere niente. Vabbè, che vuoi dire, Giulio? Giulio, cosa vuoi dire? Voglio dire che per la scienza medica una persona è pedofila, cioè è amante dei bambini, quando prova delle attrazioni sessuali verso delle persone infra undicenni. Maometto, secondo la biografia ufficiale dell'Islam, ha sposato Aisha, una bambina di 6 anni, ha poi aspettato che compisse 9 anni per deflorarla, per consumare il matrimonio. Ma a cosa serve dire questa stupidaggine? Me lo spiega non cosa serve? Non è una stupidaggine, è un fatto storico. A discutere in questi... A discutere, lei è a discutere, sì, bravo, ma a discutere in questi termini beceri della vicenda del Corano... Cosa serve? Ma a cosa serve? Per dimostrare che cosa? Sarebbe come dire che nell'antica Gesù ha camminato sulle acque, ha moltiplicato i pani e i pesci. Ma come si fa a discutere? Ma come si fa a discutere da un punto di... Perché ne discute da un punto di vista politico, non religioso. E questa è la follia. Cioè questi interventi dimostrano... Ma non c'è... Lo si tira fuori in modo strumentale e politico, non da un punto di vista religioso. Ma quale processo religioso? È evidente che è questo, no? Come dire che tutti i musulmani sono potenzialmente dei pedofili. Beh, è questo che mi fa incazzare, perché è una stupidaggine, è un modo stupido di discutere, stupido, però, scusa, stupido, Davide, perché è un modo politico, Davide, non religioso. Scusami, questo scusami, è l'origine del fenomeno delle spose bambini. Infatti, ma non marca, c'entra niente. Insomma. Se Davide, che compulsa sempre internet, ci va a vedere adesso... Ma le spose bambine è una cosa gravissima, ma non ha... Imam che si chiama Osama El Saidi, sì, che lui certo. Ha fatto un'esortazione al governo danese ufficiale di accettare le spose lo bambine, so, certo, ma infatti perché è nella cultura islamica, no, è nella cultura di quell'imam, no, vabbè, no, capito, ma si rifà all'Islam, no, si rifà perché non no. C'è una dottrina no. Unica nell'imam, ma non c'è non dubbio, c'è però papa quello si rifà una come parte dell'Islam, il cristianesimo si rifà ad una parte dell'Islam, parte malata, ma quello che è un'interpretazione malata di quella cosa lì, e quindi ne deriva ma questo qua... non c'entra niente con l'Islam, è che l'Islam incita a sposarti le bambine, fermi, è una stupidaggine. Fermo lì. Cruciani, sei senza Dio. La Zanzara. Cioè Parenzo, tu, io porco giù, ma come cavolo succede? Ma tu mi dici che in pratica, porca, I rom sono un anello fondamentale nello smaltimento del... cioè, ma pare mai ricco, cioè, io Parenzo, ma vaffanculo Parenzo, dai, su. Grazie Parenzo per belle parole. Arlan, prepara collana per Parenzo, collana di rame. Parenzo, assumi una nomade come Colf. Ma che cazzo sta dicendo sto Parenzo? Ma vado a vedere i campi nomadi, cosa c'è intorno, la merda! Cazzo! Caro Parenzo, tu pensa che te devi da far guardare da uno buono, da un dottore buono? Ma un dottore buono, buono, buono, buono. Dammi retta. Un bel luminare, un bel neurologo. Maria, del Policlinico Gemelli. Quello è uno buono, fate visitare da lui. Ma chi è questo del Policlinico Gemelli? Il Policlinico Gemelli, pare. Non lo so, non so se esiste questo medico. Però hai visto quel rom, è fantastico quello che ti ha offerto, sì, la collana. Sì, quello divertente, bravo, sì. Crucia, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Allora, quello che voleva diventare il portavoce della mafia, perché diceva che la mafia in fondo era meglio dello Stato tassatore, te lo ricordi, il mitologico conduttore di Radio Padania Pellegrin? Vogliamo sentire come ha preso il signor Pellegrin l'acquisto di Radio Padania da parte di un imprenditore di origine calabrese, il signor Suraci. Pronto? Pellegrin? Sì, sono io. Sono Cruciani, eh? Come andiamo? Sì, ma non imbrogliare gli ascoltatori, non imbrogliare me. Parla in calabrese ora. Oh, vabbè, se sei un bambino scemo ti saluto. No, fermo. Chiamami quando non sei bambino. Ma com'è sta storia che vi hanno portato via tutti i calabresi? L'imprenditore calabrese che ha comprato via tutto. Chiamami quando non sei bambino scemo. Ma lui c'è sempre, che vuol dire? Allora mi dispiace. Ma dai, io parlami, commenta questa cosa qua. Non devo nulla, ma chi sei, la Cassazione? Ma no, ma commentami questa cosa qua, no? Non devo nulla. Ma chi deve qualcosa? Chi ha detto che devi qualcosa? Luciani, tu sei quello che ama vedere le sue donne copiarsi. Ma quelle sono cazzi miei, amico mio. Questa ragione. Sì, allora c'è una cosa, ti do un consiglio. Sì, dimmi. Vai a casa e vai a fare il test del DNA a tua figlia. Il? Cioè, questo coglione ha detto che devo andare a casa a fare il test del DNA a mia figlia. Cioè, è talmente nervoso perché l'imprenditore dell'Anduja, l'imprenditore dell'Anduja, non è dell'Anduja, ripeto, uno dei più grandi imprenditori radiofonici italiani, che ha trasformato una piccola radio di Bergamo nella prima radio nazionale. Ecco, è un genio assoluto, ma lo dico come metafora, no? L'imprenditore dell'Anduja gli ha sottratto il giocattolo da dove sputare, da dove parlare ogni giorno. Per me, per carità, Radio Padania è grande fonte di qualsiasi cosa. Tutti gli ascoltatori li portiamo via tutto. Tutto portiamo via. Beh, è talmente nervoso che ha detto: batti a fare, vai a fare il DNA, test il DNA a mia figlia. Amico mio. Comunque, riproviamo, dai. Pronto. Allora, cosa c'entra mia figlia? Cosa c'entra mia figlia? Visto che ami vedere le tue donne copiarsi come tetici uomini, vai a fare il test del DNA a tua figlia. Ah, bell'argomento. Beh, siccome vi hanno comprato i calabresi, vi ha comprato un imprenditore calabrese. Let's go. Sto lavorando, pronto? No, ma capisco il nervosismo. Sto lavorando. Prendi, vai a fare il test del DNA. Sì, questo lo farò, questo lo farò. Però voglio capire una cosa: essere comprati da un imprenditore calabrese non è bello. Capisco il nervosismo, però non è bello. Lavorando ancora per quanto stai lavorando? Non ho capito. Lavorando, che cosa vuol dire? Sicuramente non stai facendo qualche manifestazione razzista? Stai lavorando in questo senso? Ciao. Allora, nel frattempo ho fatto il test. Ho fatto il test. Sono io il padre. Accertato. Peggio per la bambina. Ma sicuramente. Comunque, parlo solo io. Peggio per la bambina. Ascolta. Allarme. Siamo nazisti. Non ho tempo. Ma com'è la? Non devo niente. Com'è? Com'è il sentimento? Com'è lo stato d'animo? Lo stato d'animo com'è? A te. Come ti senti? Fosse Confindustria, che quei nostri soldi. Zitto. Le potenti frequenze di Radio 24, tu non lo vorresti da nessuna parte perché è fallito dappertutto. Sicuro. Ma come ti senti? Certo, ma come ti senti oggi? Non devo niente. Ma come ti senti? E ti saluto. Come ti senti? Com'è la sensazione? Lavorare, insomma. Io ho la trasmissione dopo, quindi trasmissione. Questa è una buona notizia. Questa è un'ottima notizia, finalmente. Finalmente! Questa è un'ottima notizia! Razzismo finito! Finito il razzismo! Cosa sgradevole? È arrivato Oxford! Scusa, io volevo parlare! Oxford style, tu, vero? Grande nervosismo, c'è grande nervosismo, effettivamente. Vedo molto negativo. Quasi quanto in un campo rom dopo una retata, c'è tensione uguale. Secondo fanno le retate nei campi rom, c'è tensione uguale in questo momento. Io vedo molto negativo. Mm. Sì, può essere. Allora, abbiamo con noi Martina da Prato. Come stai, Martina? 26enne, 140 kg. Spero che dimagrirai. Comunque, novità dal mondo del lavoro, Martina. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao, Martina, dimmi, che è successo da ieri? Un disastro? Allora, telefonate, cose, proposte di lavoro? È stata una cosa assoluta. Tanto vi chiedo scusa che ho mal di gola e che il tempo non mi ha aiutato. Questo mi dispiace. Ma non stai a casa tu? Scusa, che sei uscita a prendere una botta d'aria? No. Visto che sono a dieta, comunque le mie camminate mattutine serali le faccio. Tu dici che camminando ho i miei dubbi. Comunque vabbè, fa sempre bene. Ho i miei dubbi. Sul fatto che tu cammini, sul fatto che camminando riesci a migliorare qualcosa, però serve sempre. Certo, ci si prova. Vabbè, allora Martina, che è successo? Ti è arrivata qualche proposta concreta di lavoro per questa denuncia che hai fatto di discriminazione, che per me non c'è, te l'ho detto ieri, che per me non c'è. Però, comunque, ti è arrivata qualche proposta o no? Sì, allora, ieri mi è arrivata una proposta e ho già un appuntamento fissato per venerdì. Ah, con chi? In che ambito? Sempre come il call center. Al call center, cioè tu sei seduta a prendere le telefonate? Sì, praticamente sì. Beh, non credo che il tuo peso, la tua stazza dovrebbe rappresentare qualche problema da questo punto di vista, no? Assolutamente no. Ma hai già parlato con il signore o con l'azienda? Sì, ho già parlato con il diretto interessato e venerdì pomeriggio all'appuntamento. Molto bene. Io dico una cosa, questa roba qui però secondo me è un caso di discriminazione al contrario. Cioè, Martina è una persona che sta al gioco, ma in questo caso non è un gioco. Cioè, lei in questo modo, dicendo che c'è discriminazione nei suoi confronti, passa avanti in quanto, diciamo, obesa, grassa, in quanto cicciona, in termini amorevoli, insultandola, e passa avanti a persone che potevano essere assunte in quel call center al posto suo. Scusa Martina se te lo dico, ma per me è così, o no? Allora, ti sei posto il problema o no? Allora, sì, sì, ma ti dico subito, ti rispondo. Il mio intento non era quello, come ho spiegato non solo a voi, sì, ma sì, anche sul giornale e altre persone che mi hanno, sì, contattato tramite Facebook. Che il mio intento a voler aprire questo nuovo mondo non era tanto perché io esigo o esigevo un lavoro. Io ho aperto questa cosa perché... ho avuto una violenza a livello psichico con una discriminazione. Ma che violenza? T'hanno detto che in mezzo ai tavoli non ci potevi andare e a fare la promoter, che io non so bene questi nuovi lavori, la promoter, cioè a vendere dei prodotti come donna immagine dei prodotti, non ci potevi andare perché eri troppo grassa. Dove sta la discriminazione? Che te l'hanno detto brutalmente. No, bravo, perché come ti ho detto anche ieri, ci sono modo e modo. Te ieri che comunque mi dicevi che ognuno deve decidere chi prendere e chi non prendere, su questo sono d'accordo, però ci sono modi e modi. Però scusami, io sono contento se tu trovi lavoro, per carità, perché non, ovviamente sono contento, però secondo me è una specie di discriminazione al contrario. Scusami un attimo, ti posso presentare una persona che è il professor Alberico Lemme, che è un mitologico professore che tu potrai vedere ogni tanto a Canale 5. Che non è professore poi. Beh, professore io non lo chiamavo professore. Scusa Alberico, ma perché Parenzo ti tratta così male poi? Non lo no, ma per carità. Alberico? Sono dottore, non professore. È dottore. Allora, professor Alberico Lemme, io lo chiamo professore. È un medico, è un medico. È uno specializzato, non è un farmacista. È farmacista. È un farmacista, vedi. Appunto. Nel far perdere peso alle persone obese. Alle persone obese. Okay. Ti presento, Martina, dell'offendere presentatevi, Alberico. Ci sono, buonasera, dottore. Buonasera, cicciona. Allora, ma come si permette? Ma guarda che è veramente un... ma come ragione si fa lui, però, a dire così? Alberico, ma guarda... se si presentasse Martina, 140 kg, un metro e... quant'è di altezza, Martina? 80. Un metro e 80, cioè non è nemmeno troppo bassa, è abbastanza alta, però comunque la stazza, 140 kg, è notevole. Se si presentasse davanti a te in studio, che cosa diresti subito come prima cosa? È quello che ho appena detto. Buonasera, benvenuta, cicciona. Cicciona, fai anche schifo, no? Non glielo dici, no? Non ti vergogni, io di solito aggiungi poi anche... Lo dico dopo, lo dico dopo. Quando faccio la foto che lo proietto sullo schermo e faccio vedere tutti i punti salienti dove grassa, sì, e dico: come fai ad andare in giro in quelle condizioni? Non ti vergogni? Ma come fa lei ad andare in giro vestito con quelle giacche che ho visto lì dalla signora D'Urso, ad esempio? Ma nessuno gliel'ha mai detto. Io l'ho seguita perché a un certo punto ho voluto associare a una voce e una faccia, e quindi una domenica mi sono preso una specie di Alka-Seltzer e mi sono messo davanti alla televisione e ho detto: voglio vedermi chi è questo professor Lemme, dottor Lemme. A un certo punto, simpaticissimo, dall'eloquio anche... mi è apparso questo qui che aveva una specie di tenda staccata dai muri del Palatino. Però l'hai visto, te lo ricordi? Ma mi ricordo questi vestiti improbabili, sì, uno dice, con insomma, colori piuttosto bizzarri, direi, arancione. Vedrete l'abbigliamento di domenica prossima. Comunque la cosa è molto semplice, il professor Alberico Lemme ci vorrebbe qualcuno dice: scusi, ma lei non fa schifo andare in giro Martina, anzi mi presta quella giacca che voglio fare una figura di merda, questo le volevo dire. Se mi presta per cortesia quella giacca che lei indossa, perché io domani voglio fare una figura di merda. Ti vuole il fisico per portarsi il giacca, se tu non te lo puoi permettere. Allora se tu dovessi andare dal professor Lemme, cara Martina, sì, e ti dicesse obesa, ti fa vedere i punti in cui sei più grassa e ti dice: non ti vergogni, cosa faresti? Usciresti subito oppure vediamo che cosa ha da dire? No, rimarrei, perché se non si vergogna lui a vestirsi in quella maniera, perché mi deve vergognare io andare in giro? Appunto. Vabbè, adesso le conviene rimanere, perché dopo 4 mesi la ragazza ha perso 40 kg. Addirittura. 10 kg al mese. Cioè tu, se venisse da te alla modica cifra di 200 e rotti al mese... 244 euro al 244 mese. Tu prometti al 100%... Quattro mesi 40 chili. Mangiando a sazietà. Mangiando a sazietà. Allora, il problema però, Martina, è che tu la faresti sta cosa o no? Assolutamente no, perché come vi ho già detto, il mio problema, e lo ripeterò fino all'infinito, io non sono una persona che mangia tanto, perché non sono così stupida da aprire un appello assurdo se veramente... Io con mia coscienza so che sono una persona che si mangerebbe anche il frigorifero. Questa ragazza, la cicciona, non vuol capire che è una questione di salute. 140 kg, a 26 anni, 1,80 m, è in armadio. Sa che rischia l'infarto, sa che rischia l'ipertensione, sa che rischia il diabete. Allora, lo so deve bene. Spendere, deve amarsi di più. Lei non si ama, si vuole male. Quindi no, io non è che mi voglio male. Lei anche non si vuole bene a vestirsi in quel modo, e anche lei, però, mi dia retta, professore. Però Martina dice che il problema non è il cibo, giusto? No, dobbiamo capire tutti... Perché è così grassa la ragazza? Perché è grassa? Respira tanto, allora, cosa fa? Io ho una malattia metabolica endocrinologica. Non diciamo sciocchezze, qual è la malattia metabolica che lei ha? Qual è questa malattia metabolica? Mi dica il nome e cognome della malattia metabolica che ha? Questo... questo non mi sembra il caso di dove lei cioè, queste sono cose mie private. Lei mangia male, lei mangia male, lei mangia ma male. Scusi, punto. Ma noi abbiamo mai mangiato insieme? Lei mi ha visto cosa mangio, ha visto quante volte vado in bagno, ha visto come dorme? Il suo fisico che mi dice quello che lei mangia, il suo fisico ma che mi dice cosa mangia. Ma non l'ha nemmeno mai visto. Lei come si può certo, permettere per quanto è medico? No, non è vero niente, assolutamente. Non è 140 kg? No, io sono 140 kg, ma allora non vuol dire che è già una risposta questa, perché non è assolutamente si vero. Si ami di più, mi dia rette, si ami di più. Ma io mi voglio bene e mi amo e rispetto me stesso, ho imparato a rispettarmi per però questo. Giustamente, lei, però giustamente, non si rispetta, no. Non si rispetta. Lei non ama che la vita e non si rispetta. Però il professore, giustamente, ma il professore... Il mio socio gli ha donato la vita e lei lo rifiuta. E viene male. Il suo socio chi è? Chi è il suo socio? Il mio socio è il Padre Eterno al 49%. Ah, oh Gesù Cristo Santissimo, chiudiamo qua perché proprio io non sono d'accordo. Aspetta Martina, aspetta un attimo, c'è la pubblicità, un secondo e poi chiudiamo che ti voglio chiedere una cosa, aspetta. Cruciani è come l'amore, come il vento, come Rocco Siffredi in fila dietro di te al supermercato. Non lo vedi, ma lo percepisci. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, immagina se sul 64 stasera su Via Nazionale mi fermo e avverto le persone che devo fare una scorreggia. Aspettate un attimo, l'autista scende perché deve scorreggiare. Ma de che? Ammollo una bella loffa di quelle puzzolenti, così chi si avvicina per rompere le scatole e sente la nube tossica si allontana via via e lavoro in santa pace. Però Davide, questo è un caso clamoroso, eh? Questo è un caso clamoroso, va detto, va anche denunziato, credo, all'ATAC, no? L'azienda comunale dei trasporti. Cioè, praticamente un autista così si è presentato, magari poi non è vero, praticamente emette dei peti, chiamiamoli così, giusto? Durante il proprio servizio. Questo è una denuncia intanto, che si può fare, no? Intanto penso che sia un racconto un po' farlocco, perché come voi sapete tutte le cabine degli autisti degli autobus hanno un finestrino e sono chiuse. Beh, che c'entra, quindi no, non volendo sono chiuse, lui passa la cosa. Cioè, la scorreggia passerebbe. Se apre il finestrino per bene, dopo un po' il fettore esce e quindi il suo momentaneo mal di stomaco viene secondo ovviamente. Secondo me no. Quindi me mi no. Sembra un racconto farlocco. Fosse vero, poverino, purtroppo, ma non è che si vanta. Ma sarebbe però, da denunziare all'ATAC o no? Sarebbe da denunziare no, l'autista scorreggione. Beh, poveretto, forse sì. Assolutamente. Allora, poverino, penso che sarei contento. Adesso torniamo subito dal professor Leme e da Martina. Io penso che tu sarai contento di quello che alcuni residenti fanno a Pescara. Sai che cosa fanno? Cacciano i clienti delle prostitute. Cioè, in via De Gasperi, sì, un gruppo sì di cittadini scende in strada la sera accanto alle ragazze, praticamente per non far fermare le macchine. A sì nessuno piace essere guardato in faccia mentre va a contattare, esatto, a contrattare con una prostituta. E noi bravi, ci siamo messi bravi lì apposta a guardarli per forti non farli sì fermare. Bravi, bravi, forti. Bah. Approfondiremo domani. Allora, io voglio capire da Martina, che ha 26 anni, di Prato, e che ha denunciato questa cosa. Ho 140 kg, mi discriminano sul lavoro. Domani ha un colloquio importante. Speriamo che venga assunta. Cosa ne pensa di questa brutalità del professor Lemme, cara Martina? Cioè, di questa brutalità e anche di questa, se vogliamo, anche cinismo. Devo dire che alle persone con dei problemi può servire, no, Martina? Non è cinismo, no? È maleducazione. No. Sono d'accordo col tuo collega, assolutamente maleducazione. Cioè, è maleducato. Per dire poco. Io sono maleducato, però la mia maleducazione non si vede. Quando va in giro la cicciona si vede, lo vedono tutti. Infatti non gli danno lavoro, perché è grassa, è cicciona. Dove si presenta? È importante l'aspetto fisico in questa società. Vabbè, ho capito, anche ma l'aspetto della salute, quindi siccome voi sapete, cioè, fanno bene a non dargli lavoro, fanno bene? Sì, fanno benissimo a non dargli lavoro. Quando io devo assumere delle persone qui, quando io devo assumere delle persone, delle ragazze, siccome non c'è nessuna differenza tra una cicciona, al cervello di una cicciona, al cervello di una magra, preferisco prendere la magra, almeno quando la guardi, guarda che bella gnocca che è. Avete capito come la pensa l'imprenditore? No, è una realtà questa, è una realtà, diciamo la verità. è una realtà che deve cambiare nel 2016. Ma non cambierà con la vostra ciccionaggi, non cambierà mai. Io sono solo stanca di nascondermi dietro i fili d'erba. Lei l'hanno fatto, lavora un po' seduto in ufficio, e seduto e basta, quello è il lavoro. Prende coscienza di questo, hanno offerto un lavoro nel chiuso di un ufficio. Però scusami, Martina, sì. Il ho punto capito, è ma se Martina vedesse questo professore, lo vedesse in faccia, gli direbbe sicuramente che lui è perfetto per lavorare al Cirque du Soleil, ad esempio. No, perché, vabbè, che c'entra, ma dai. Sicuramente ho da dare stogni, perché il modo come lui si presenta anche in televisione è un modo al quale io non gli darei un cent, ad esempio, non gli darei un pound oggi, visto che è uguale all'euro. E quello importa, che voi mi guardate, tu mi hai guardato me. Mentre tu dici una cicciona la schifi, tu dici, no? Però io, Martina, volevo dirti una cosa, ma sì. Tu il tuo problema non me lo vuoi dire qual è, perché giustamente tu hai la tua privacy, no? Certo. È evidente, però dici non ha nulla a che fare col cibo, niente, possibile mai? Possibile assolutamente mai. No, in questo ho avuto, e lo ammetto, ho avuto dei problemi con il cibo, non lo metto in dubbio, ecco. Ma se volete vi spiego anche il perché, non me ne vergogno. Perché? Io sono stata per tanto tempo sotto dei farmaci di cortisone e altri antibiotici che mi hanno aiutato, tra virgolette, a ingrassare, a prendere peso. E mi mettevano fame, perché avevo una malattia del sangue e del cuore, punto. Quando poi ho cominciato a smettere questi farmaci, che io sto parlando del 2009, non si dimagrisce nemmeno in 10 anni. Non è vero, comunque si dimagrisce, rimane. Se lei viene da me, sì, dimagrisce, non è si vero. Si dimagrisce, se io mi metto a fare cocaina. Le do una dritta, se lei si scarica la mia applicazione, Rivoluzione Dimagrante. Pure l'applicazione. Abbiamo l'applicazione, è favolosa, si dimagrisce a casa, da soli. Sì, basta scaricarla. Costa soltanto 87 euro. E si fa pubblicità, intanto si fa l'automarchetta. E si fa l'automarchetta, perfetto. No, giusto, quello è giusto. Scusate un attimo, io parlo con tutto il rispetto, ma da una persona che già si presenta in maniera molto offensiva e credendosi il Dio in terra, non scaricherei mai niente. No, io non è che mi credo, io gratis. Sono. Allora complimenti, mi sa che è ben lontano dalla lucidità. No, però ha aiutato un sacco di gente a dimagrire il professor Lemme, bisogna dire. Sono contenta per loro, però per me, già che una persona viene vicino a me e si fa superiore, si fa più grosso, solo chi perché ci ha un pezzo di ragione, carta in mano. Testa di donna, ragione, chi ci rimette? Io che mi faccio grosso, lei che è grossa. Io non ci rimetto, perché no, sinceramente... No, peggio di così. E vedi come sono le donne, sono delle teste di donne, roba da pazzi. Come si no, fa a veramente io non ci rimetto, perché comunque ho una gran fortuna che tante persone non hanno. Ho un fidanzato, ho una famiglia meravigliosa. Un fidanzato, una famiglia. Ho tutte le persone che mi stanno vicino e che supportano la mia problematica e supportano la guerra che ho cominciato a fare, che non mi fermerò per quante persone come lei ci possono mettere al mondo, grassa, io non mi fermerò. È grassa, sta male, non può andare avanti ma così. Lei, ma perché glielo deve dire lui? Ma lei chi glielo dice che io sto male? Ma perché deve offendere le persone? Vabbè, è chiaro che uno che comunque pesa 140 kg, me lo dici anche tu, ma Martina. Ma è il massimo della forma. Questo non c'è dubbio, no? Anche tu vuoi ma dimagrire. Se lei alla fine sta bene col suo corpo, deciderà lei, no? Se sta bene o no. Oh. Per farvi un esempio, il mio compagno è cuoco, io lavoro ogni tanto lavorato da lui come cameriera e nessuno delle persone che sono venute a mangiare si è mai lamentato, anzi quando mi vedono mi fanno: Martina, perché non torni a lavorare? Scusami professore, se tu fossi un ristoratore assumeresti Martina? Assolutamente no. Assolutamente. Ma io non assumerei nemmeno lui, uno che viene da me mi chiede lavoro, no, quelle io se condizioni avessi... anche no. Ma io quelle se condizioni, se avessi il tendone di un circolo assumerei sicuramente. Ma perché siete contro? Ma io verrei volentieri. Perché per come cannone, insulta non lui vergogno. Cioè io l'ho visto in televisione. Faresti la donna cannone? Faresti? Sì, sì, ma io perché sono dell'idea, allora io il professore, dottore, chiamatelo come vi pare, per me lui è solo una persona che ha più problemi di quelli che ho io, ma è quello che mi viene a offendere. Questo non questo credo, può essere, questo può essere. Questo non credo. Questo io la vedo non così perché lei per me è soltanto un bullo in questo momento. Ma un bullo, professore, adesso perché applaudite voi? Siete delle vergogne, dietro al vetro, tutti contro lei, ma no, io la voglio difendere lei. Ma stanno bene, perché una persona che viene così, credendo di essere Dio, per me non è nessuno. Ma lui, è, lui non è che pensa, lui Alberico, rispondi tu, non è che puoi. Io sono il socio di Dio. Io ho il 51, lui il 49. Pensate un po'. Sono il socio, però io comunque dico una cosa, Alberico. La situazione è grave. Cioè, sì, molto. Martina non ha problemi. Tu dici, in realtà tu puoi intervenire anche quando non c'è un problema di cibo. Cioè, comunque la puoi fare di magari. La ragazza, adesso, da quello che ha detto, ha avuto un problema, forse ha un problema di bulimia. Vuol dire sì o no, non mi interessa, però è un problema molto di bulimia. Di bulimia. No, scusate, ma voi sapete che cos'è la bulimia? Ma l'ha detto lui, ora lo dice lui che è il socio di Dio, che devo dire, avrà ragione lui. Allora, no? Scusate, la bulimia è un problema, è uno squilibrio ormonale, non è un problema psicologico. Ma non è vero, ma la bulimia è quando la persona l'abbiamo è malata, detto, è grassa e si infila le dita in bocca per dimagrire, ma studiate! Per vomitare, certo, esatto. No, ma questo vabbè, comunque, professore, professore sa quello che tu hai, lo sa, perché lui è il socio di Dio, dunque lo sa, Alberico. Allora, è colui che lo sa. Allora Lemme, che deve fare sta signorina? Che deve fare? Se lei segue il mio metodo, cioè filosofia alimentare, non è pubblicità, è soltanto un'informazione, sì, la bulimia guarisce in un mese, perde 10 kg e finalmente potrà arrivare a... Per esempio, la mattina che potrebbe mangiare Martina? Allora, fammi un esempio. Cosa potrebbe mangiare? Delle uova sode, sono squisite. Poi? A pranzo... No, poi uova sode, poi i bomboloni no. No, uova sode a colazione. Sì. No? Poi? Oppure una bella frittata di fragole, se preferisci la frutta, no? Sì, poi frittata di fragole. A pranzo un bel coniglio. Coniglio a pranzo, poi? A pranzo. Sì. E delle zucchine a cena. Zucchine a cena. Beh, è troppo poco, scusa. Dici che se mangia... Ma ragazzo, lo può provare. A sazietà, uova sode anche 10. Tranquillo e mezzo. Anche 10 uova sode si può mangiare. Anche 10. Sì, così poi ti esplode il fegato. Bravo, ti si apre un altro problema dopo però. Il fegato, le uova non fanno male al fegato. No, non fanno male al fegato, niente. Scusa, come, ma lei come lei si veste come un uomo elegante, uguale, guardi. Aspetta, dieta che dici, Martina? Questa che ha detto il signor M, Lemme, sì. Si chiama dieta proteica, cioè tutto è arrivato con le proteine, le patate all'estero, dieta proteica. Ma cosa sta dicendo? Testa di donna, cosa dice? Perché dice testa di donna, scusa? Perché secondo lui è donna. È un dottore di M lui, è un dottore di Lemme lui, è un dottore di Lemme lui. Lui è un dottore di Lemme, guarda. Va bene, Martina, mi sembra che non ti vuoi affidare al professor Lemme. Ah, assolutamente no, preferisco rimanere così a vita e senza lavoro allora. Ciccione a vita sta bestia. Ma contenta di rimanere ciccione. Sta almeno bestia. Io c'ho il cervello e non ma vado come a rompere si alla gente. Sta bestia. Ciao Federico, ciao Martina, grazie. Ciao. Mamma mia, ragazzi. Oddio, ragazzi. Diego Venezia, vai Diego. Diego. Pronti, Cruciani, come sei? Vai, come va? Parla italiano, parla in veneziano, parli con Parenzo. In veneziano parlo, quello che parla. Vabbè, ma in Veneto allora, è Italia! Avete rotto il cazzo, Veneto è Italia! Non ma parla, ma parla così, con l'aereo così, va Remengo, Rialto, dai, Ponte del Rialto, forza, avanti, con l'aereo così veneziana. Sembri Cacciari, sì. Ma certo, ma va bene lo spirito a Venezia, per forza, dai. Allora, che mi vuoi dire, Diego? Allora, volevate sapere cosa vuol dire i fixed and ten. Ma io lo so che cosa vuol dire i fixed cent cent, amico mio, dai. Comunque dimmelo tu, erano, cosa vuol dire? Erano il tempo dei giornalini, tipo lo V, lo S, le ore. Questo l'abbiamo già detto, però, poi? Poi c'erano questi momenti di massima, di apice dell'orgasmo. No, si chiama eiaculazione. Si può dire anche in un altro modo, ma non è il caso, ma semplicemente perché lo capiscono tutti. Cioè, non sì, eiaculazione. Eiaculazione. Allora, ma io l'ho già detto: il momento dell'eiaculazione c'era questa frase che usciva da Gabriel Pontello, che mi dicono adesso esatto, sia Gabriel un regista Pontello. Diventato con un nome più o meno simile, Gabriela Ponte, credo, un regista di film hard un po' estremi. Ma lo contatteremo, Parenzo, nei prossimi giorni, non ci ti preoccupare. Ci mancherebbe. È interessante capire se vota sì o vota no al referendum, no? Ci mancherebbe altro. Interessantissimo. Siamo tutti esempio, pronti a il mondo a del sapere. Porno, questo è interessante. Come si divide? Sì o no il mondo del porno? Anche bisognerebbe lì trovare dei duelli nel mondo del porno, altro che Zagrebeschi cose. Il porno come vota? Sì, no. Per esempio, F-Ball magari vota sì, un altro vota no. Interessante. Questa è un'idea, questa è un'idea. Ragazzi, a domani, non mi avete rotto i coglioni, ciao. Siete veramente pietosi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione